Giorgia non è male. La domenica tiene più persone degli abitanti del paese. Entro, ordino, c'è il padrone al banco. Un ragazzo con tutto l'alba dei sorrisi. Saluta, ringrazia, andava tutto bene. Una grappa, una mano, una grappa, una mano. Giovedì sera la pizzeria è quasi vuota. Ho sentito russi bestemmiare in italiano. Croati, slavi, albanesi bestemmiare in italiano. Tedeschi, austriaci, neri, gialli, rossi bestemmiare in italiano. Li ho sentiti parlare tra loro nella loro lingua, ma bestemmiare in italiano. Il Papa ce l'abbiamo noi e la bestemmia pure, e tutti ce l'invidiano e la usano, perché c'ha un suono, c'ha un colore che nessuna parola ce l'ha. È come l'inglese per il rock o una sigaretta dopo il caffè. Il padrone è al banco, davanti a lui due amici. Il TG riporta la notizia dell'abbattimento del quartiere marocchino a Padova. L'abbattimento del quartiere marocchino a Padova. E lui, compagni con Napa, compagni tutti, fammi una birra, marocchini de merda, croci de merda, e tu ciao, albanesi de merda, fioi de puttane, tomare roia, io e ho appena lavato la macchina, che la vacca che t'ha cagà, ebreo, mori, Prodi voleva farvi un monumento, ma se doveva mia bene, poteva mandargli sto fiore e sto moglie, così che se le violentava a turno, così la vedemo se dopo che ancora qualcosa da ridire, che il ciccione comunista testa di cazzo. Io ho provato a smettere di bestemmiare, ma non ce l'ho fatta. Chi mi conosce distingue chiaramente che ogni tanto in chiusura di frase mi scappa un Dioc. Dioc che non è proprio una bestemmia, è qualcosa che è rimasto e che non se ne va, è un suono di cui non posso fare a meno. Serra Simone, cognome e nome, 5 anni, di buona famiglia, con la R moscia, gioca in cortile con le sue macchinine, mentre le muove una giaculatoria. Poco, Dio, ti cambio poco, oddio, ti voglio, ti cambio. Cerco complicità negli occhi di una ragazza, e lui, compagni con Napa, compagni tutti, fammi una birra, marocchini de merda, croci de merda, ecco ciao va, albanesi de merda, fioi de puttane, tomare roia, pioli, ho appena lavato la macchina, che la vacca che t'ha cagato, ebreo, mori. Ventenne, anonimo, con la sua bella, durante la visione di Rocky Balboa, stemme sussurrate e dette fra i denti, colonna sonora di un film da tutto esaurito. Adino in pizzeria, nella sua pizzeria, bestemmia, gli sale sangue alla testa, bestemmia come fiato, come aria, è viola, urla che pare debba esplodere, un animale, porco Dio, Dio can, Dio porco, orco Dio, Dio boia, Dio can, chiesa la testa, una grappa paroma, briscola tua, Dio can, sasso, sasso, formice, leon che mangiano, 5, 7, 9, 1 a 0, Dio can, ma si tossemo, 5 mio, 3 tuo, fa 8, Dio can, no 7. Pago, prendo la pizza, me ne torno a casa, nell'appartamento vicino al mio, abita una famiglia di marocchini. Sul balcone hanno messo un telo verde alto 2 metri, un muro invalicabile verde. Quando passo sento le voci dei bambini che giocano, mi salutano ma non li posso vedere. Mi tappo le orecchie, giro la chiave, butto giù la villa. Mi propongo di ricordare di fare la spesa. Porco Dio, Dio vuoi, Dio can, chiesa la tua testa, una grappa paroma, brisco la tua, Dio can, sasso, sasso, forte, se ne ho che mai però. 5, 7, 9, 1, 0, Dio can, ma si possiamo. 5 mio, 3 tuo, porco Dio can, no 7. Porco Dio, Dio can, Dio porco, porco Dio, Dio vuoi, Dio can, chiesa la tua testa, una grappa paroma, brisco la tua, Dio can, Thank you. maiale, porco o vacca. Cerco signora disinibita, no bulimica, no anoressica, no nera, no est, no Sud America, no Marocco, no Algeria, no Tunisia, no Turchia, no Cina, no Sud, no handicap, amante del presepe, no figli, no gravida, no stitica, con passione per la casa. Cerco disperatamente anima gemella, parmetta su famea. È un anno che sono solo, l'ultima la malassata dopo 8 mesi. Dovevamo iniziare a convivere. Non te dico quanto la me costa, de benzina, buono che ne parlemo. Preferibilmente residente a Verona e provincia, automunita, no preservativo. Me mando lo stipendio al nightclub, par fortuna levi sia a casa, con computer pieno di virus. Te sito mai fatto una canna, un acido, una riga de coca, in vena, tomare, una taglia di 15 anni, in solitaria o viaggio organizzato, Muccino o Ospedec, italiano o padano, modo locale o modo volume, quanto costa, un pacchetto tutto compreso, un'andata senza ritorno, tasto 1, tasto 2, tasto 3, e domani mortio, e domani pensare sul ciclo, sito mai stata violentata. Cerco donna, anche non bella, anche non giovane, anche prima esperienza, no mercenarie, per amicizia e o relazione. Cerco una roia, anche brutta, basta che la me l'è data. Cerco compagna che beva birra malalcolica, caffè ma decaffeinato, latte mascremato, mangi panna ma senza grassi, fumi ma leggero, sia per le bombe ma senza vittime, per la guerra senza guerra, ricca ma generosa, per la tortura ma come ultima spiaggia, piena di soldi ma con un bilancio sociale, che mangi cioccolato ma solo prima di fare sport, credente ma non invasata, schierata ma moderata, faccia sesso virtuale, cioè sesso senza sesso, politica e non politica, in una parola, tecnica. Il cinema è la teatro, teatro, centri di permanenza temporanea o villaggi turistici, baby dance o baby doll, la mamma o la madonna, lavoro nero o soldi sporchi, tunisini o spacciatori, scafisti o albanesi, teroni o contadini, un muso e un muso. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sa che ci sono anch'io. forse a una romantica sualità qui all'ordine ancora Stefano Colombo, mentre Monsignor Coffi sta vincendo la bara. Sesso fa partire. L'amore fa tornare da te. E dalla pelle al cuore son davanti a te. Tutturu turu tutu, tutturu turu tu. Tutturu turu tutu, tutturu turu tu. Sì, 12 meno 5, 7, 7 per 31, 217. ore, 5 euro, 50 euro, da 20 persone, 1000 euro, da 365, 292.000 euro, da ogni pasti, da galato, sottrae, giorni di pioggia, 292.000 euro, e scheri, scheri, fa scheri, una volta di scheri, scheri, oserei, finché viene a ciappelli, le nere costano poco, le schiave se possono ti curano, le italiane si la tirano, 1000 euro a metro quadro, 100 metri cubi, 10.000 euro, 1000 ettari, 50 finali, 2000 campi, 100.000 euro, 400 casse, 900 prodotto, 200 quintali, 3000 campi, 1.000.000 euro, 10 capannoni, un permesso, 3 varianti, 4 ristrutturazioni, 7 IRPEF, 3 DICI, 10 IVA, 9 IRAP, 7 e 4 di interessi, 2 e 5 di svalutazione, 1 e 1 di ammortamento, 3 e 6 di usura, mutuo prima casa, mutuo seconda casa, mutuo terza casa, anni di fidanzamento, un anno di sottotitoli, un anno preparare il matrimonio, 2 anni di matrimonio, un anno di sottotitoli, un anno su nel giro a fare la vita a tutti, perché non era una buona per stare incinta, e lui a farsi le sedie davanti ai dottori, parte di essere funzionale, sopra sta incinta, ma fortuna, scherzo, satortina multipla, mi fa tutte le analisi che esiste al manco parte volte, se nel mungolo non lo vuoi mia, non vuoi mia che sia maschio, ho paura che sia curato, 5 pannolini al giorno, 35 pannolini a settimana, 140 pannolini al mese, 1680 pannolini all'anno, 4 anni, direi 5040 pannolini, 5040 pannolini di merda, una moca di merda, tempo, pulessioni, di fabbriche e dolori, pago le tasse, pago il nero, pago la luna, pago la vigile, pago la banca, pago le prove, una cuccia, quante ne vuoi, un cucciaio, due cucce, quante ne vuoi, un cucciaio, tre cucce, quante ne vuoi, un cucciaio, prima rotonda, secondo cavalla via, terzo svincolo, le slave sono poche, le nere hanno la bocca grande, le italiane sono morbide, 100 euro alla 10 ragazze, 1000 euro, 150 euro a persona, 100 persone, 15.000 euro, meno 1000, 14.000, 14.000 euro a sera, e da 30 sere, fatto per 120.000 euro, 420.000 per 12 mesi, fa 5 milioni e 40.000, 5 milioni e 40.000 euro di escape, scale a scale, una nota di scale, scale o sei, finché viene il ciappello, dopo la bocca la lingua, dopo la lingua le tette, dopo le tette la figa, dopo la figa il culo, dopo il culo metà con la cicca, sarà gli occhi, cazzi la bocca, sotto ci tocca, osteria numero 0, e lo lungo come un cero, osteria numero 1, tu c'è un cazzo, io 31, osteria numero 2, viene grande tra le due, osteria numero 6, alle donne che piacciono io 6, osteria dell'oste scuro, il mio cazzo è sempre duro, osteria dell'oste chiaro, il mio cazzo è uno sparo, poligono, da 100 metri, 50 colpi, tracentri, stazione di tiro, 10 secondi, concentrazione, galleria di tiro, un secondo, proiettile passante, area fermapale, salma, primo centro, stazione di tiro, 10 secondi, concentrazione, galleria di tiro,